Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. E un saluto da Anna Migliorati. Ci ritroviamo ancora questa mattina dopo la diretta che ci ha accompagnato dalle prime ore con Radio 24 per raccontarvi quanto è accaduto in Siria. Alle 13 e 24 secondi in questo istante, effetto giorno, come sempre per fare il punto a metà della giornata su quanto sta accadendo. E allora, i titoli di oggi: 59 missili sulla base siriana da cui sarebbe partito l'attacco con i gas, Trump rompe gli indugi e bombarda la Siria e dice ora la comunità internazionale mi segua. Mosca reagisce, solo un pretesto, avevano già deciso la Turchia con gli Stati Uniti, l'Europa avvisata nella notte è cauta. Assad responsabile di un crimine, ma l'Italia per il negoziato, Gentiloni si smarca dall'azione militare, insorgono già Lega e 5 Stelle. Del Rio vede i vertici all'Italia e chiede un piano coraggioso, ripreso da poco il confronto con i sindacati. Scuola si cambia, terminato da pochi istanti il Consiglio dei Ministri, deve riscrivere le regole per l'esame di maturità. Giochi a calcio, arriva la cittadinanza italiana, un'operazione svela 300 permessi non regolari, ci sarebbero anche giocatori di Serie A, c'è anche il nome di Enrique del Palermo nel mirino. Allora, questi titoli, riprendiamo però ancora una volta dall'attacco americano in Siria scattato, come vi abbiamo raccontato ampiamente, nella notte, 72 ore dopo le immagini dei morti a causa dei gas in Siria. Ieri le autopsie con Ankara che diceva sicuramente sono morti per i gas, un conflitto che va avanti da anni con una discussione aperta su come e se intervenire, a cui di fatto il presidente americano Trump ha dato all'improvviso una svolta con un attacco ad una base che segna però l'avvio forse a qualcosa di diverso. Il mondo si unisca a noi, ha detto Trump nel suo primo vero discorso alla nazione da capo di Stato della America, annunciando quanto stava accadendo. Ripartiamo ancora una volta dai fatti, da quanto accaduto questa notte. No child of God should ever suffer. Nessun bimbo deve soffrire in quel modo. I paesi civilizzati mettano fine al massacro. Così, in un videomessaggio, Donald Trump ha spiegato agli americani la ragione della sua decisione. È nell'interesse vitale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti prevenire e scoraggiare la diffusione di armi chimiche, ha aggiunto il presidente. Tre le opzioni proposte a Trump, che poi ha ordinato l'attacco nella notte ad una base siriana. 59 i missili contro la base di Al-Shayrat, dalla quale secondo l'intelligence sarebbero partiti gli attacchi con le armi chimiche. Solo 23, secondo le autorità russe, però avrebbero raggiunto l'obiettivo. Una base preventivamente evacuata, anche se diverse fonti parlano di vittime. Un attacco che, ha fatto sapere il Pentagono, avrebbe ridotto la capacità del governo siriano di utilizzare armi chimiche, distruggendo veicoli siriani, strutture di supporto ed attrezzature. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La prima reazione che si attendeva è arrivata puntuale ed è stata quella della Russia. Mosca, ricordiamo, è il principale alleato di Bashar al-Assad. Mosca reagisce con rabbia all'attacco americano contro la base siriana del Shayrat. Hanno sferrato un attacco a uno Stato sovrano in violazione delle norme del diritto internazionale, dice il portavoce di Putin, che nell'attacco americano vede anche un tentativo di distogliere l'attenzione della comunità internazionale dalle vittime tra la popolazione civile provocata dall'avanzata guida americana su Mosul. L'esercito di Assad, insiste il Cremlino, ha da tempo distrutto le scorte di armi chimiche con la certificazione dell'ONU e poi passa a un tema ricorrente durante l'amministrazione Obama, secondo il quale Washington sta dalla parte sbagliata della guerra e finisce per sostenere i terroristi. Ma al di là delle vampate retoriche dei possibili sviluppi, Mosca incassa attraverso la comunicazione del RAID ricevuta dal Pentagono un implicito riconoscimento del suo ruolo nella regione e non accenna alla possibilità di cambiare il programma della prima importantissima visita del segretario di Stato americano Rex Tillerson, atteso a Mosca inizio della prossima settimana. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Il mondo si unisca a noi, dice Trump, l'abbiamo sentito poco fa. Al momento le posizioni sono molto diverse, per la verità. Tra poco sentiremo anche cosa dice l'Italia, perché ha già parlato Gentiloni. Prima ricomporiamo ancora una volta anche lo scacchiere internazionale. Sergio Nava. Buongiorno, sì, l'attacco militare americano in Siria ha ovviamente spaccato la comunità internazionale, che Russia e Iran a parte si è schierata dalla parte di Washington, ricalcando uno schema peraltro già visto negli ultimi giorni in sede di Consiglio di Sicurezza ONU. Della Russia abbiamo appena ascoltato, l'Iran ha condannato con forza l'attacco statunitense definendolo attacco unilaterale. L'Europa si schiera con Washington rilanciando l'asse transatlantico in politica estera. In un comunicato congiunto il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel hanno detto che il leader di Damasco, Bashar al-Assad, ha la sola responsabilità di quanto accaduto dopo il sospetto attacco chimico. Londra ha espresso pieno sostegno al raid americano, giudicandone una risposta appropriata al barbaro attacco, e la Turchia, come ha fatto negli ultimi giorni, ha spaccato il fronte comune con la Russia e ha giudicato positivo il raid americano, chiedendo l'istituzione di una no-fly zone sulla Siria. Appoggio alla scelta di Trump anche da Israele, Giappone e Arabia Saudita. Resta neutrale la Cina, il cui leader Xi Jinping si trova proprio negli Stati Uniti e per questo è anche obbligato alla massima diplomazia. Di poco fa anche la prima reazione della NATO: il regime siriano porta la piena responsabilità per questo sviluppo, a dirlo il segretario generale Stoltenberg, che ha sottolineato come l'alleanza considera l'uso di armi chimiche una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. Sul fronte della cronaca, l'agenzia governativa siriana Sana, quindi controllata dallo stesso Assad, parla di 6 militari della base e 9 civili uccisi a causa dell'attacco americano. Secondo la SANA, appunto l'agenzia di stampa, i missili statunitensi non hanno colpito solo la base militare di Shayrat, ma anche abitazioni civili nei villaggi circostanti. E da parte sua il Pentagono dice, ha confermato i 59 Tomahawk, i missili appunto scagliati contro la base, e ha precisato che gli Stati Uniti hanno preso misure straordinarie per evitare perdite civili. Per il momento è tutto. Ecco Sergio, due cose. Innanzitutto si parla, dicevamo, la novità di questi ultimi minuti è che il regime di Assad per la prima volta da questa mattina parla anche di possibili vittime civili, mentre fino ad ora non se ne faceva notizia. L'altra questione invece riguarda la Francia, dove dissentivamo la posizione di Hollande, ma in realtà la Le Pen si è un po' defilata dalla posizione ufficiale. Ricordiamo che in Francia si vota tra poco. Sì, chiaramente ricordiamo anche che Le Pen ha una posizione molto più marcatamente filorussa, non ne fa mistero tra l'altro, ed è chiaro che questo poi rientra. Il 23 aprile si vota al primo turno delle presidenziali e questo rientra anche nella campagna elettorale francese. Grazie allora a Sergio Nava, ci torneremo, anche perché questa questione francese ci riguarda, anche perché anche da noi non è le reazioni non sono state tutte allineate. Dicevamo però, l'Italia ha parlato il premier Gentiloni, da che parte sta Roma? Elisabetta Fiorito. Dalla parte della mediazione, Anna, usa la diplomazia come suo solito Paolo Gentiloni per commentare l'attacco di Donald Trump alla Siria. Per il premier, gli Stati Uniti hanno risposto ad un crimine di guerra, Assad non li ha attenuati. Credo, dice Gentiloni, che le immagini di sofferenza che abbiamo dovuto vedere nei giorni scorsi in seguito all'uso delle armi chimiche non possiamo pensare di rivederle. Ma il premier chiede il negoziato per porre fine alla guerra in Siria. Sentiamolo. Gli Stati Uniti hanno definito la loro azione come un'azione puntuale e limitata e non come una tappa di una escalation militare. L'Italia è sempre stata convinta che una soluzione duratura della crisi siriana vada ricercata nel negoziato. Questa è sempre stata e resta la nostra posizione. L'uso delle armi chimiche, ricorda Gentiloni, è vietato dalle convenzioni internazionali e dalle risoluzioni ONU, una linea anticipata dalla Farnesina che definisce gli attacchi con armi chimiche spietati e atti vili. Reazioni molto forti dalle opposizioni. Alessandro Di Battista attacca, le parole di Gentiloni sono sconvolgenti, doveva richiamare alla pace, ma un vassallo evidentemente non è libero di farlo. Per Matteo Salvini, invece, i missili americani sulla Siria sono una pessima idea e un regalo all'ISIS. Trump fa la scelta più sbagliata e riapre la guerra contro il terrorismo islamico che era già stata vinta. Preoccupazione per un'escalation internazionale viene invece espressa da Sinistra Italiana. Te Anna. E grazie anche ad Elisabetta Fiorito. immancabili le reazioni anche dai mercati sul fronte economico, borse di tutto il mondo col fiato sospeso dopo l'attacco in Siria, che pesa però anche e soprattutto sul prezzo del petrolio. Allora, Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Effettivamente la prima reazione questa mattina l'abbiamo vista proprio sulle quotazioni del prezzo del greggio, che comunque stavano già riprendendo la strada del rialzo da qualche giorno a questa parte. Il Brent a Londra è a $55.39 al barile, aveva superato i 55,5 stamattina, il WTI americano a $52.27. Fortissima la volatilità sul mercato valutario, e questa mattina presto la divisa più gettonata era lo yen giapponese, che si era rafforzata nei confronti delle altre monete internazionali, in particolar modo nei confronti del dollaro e dell'euro. Per quello che riguarda invece il mercato azionario, le borse sono poco mosse, sono partite deboli stamattina con qualche presa di profitto dopo i rialzi di ieri. Adesso addirittura c'è un cambio di direzione, stanno passando tutte in territorio, o più o meno tutte in territorio positivo. Londra più 0,16%, Parigi è ancora sulla parità, Francoforte perde lo 0,37%, ma prima perdeva più di mezzo punto percentuale, passata in positivo Milano più 0,08% sulle FTSE MIB. Sale l'attesa per il dato sul mercato del lavoro americano che verrà pubblicato nel primo pomeriggio. Fino a ieri pomeriggio questo era il tema più importante della giornata, poi ovviamente nelle ultime sono ore scavalcato. Esatto. Quindi questa è un po' la situazione. Anna, ti do solo la lista dei primi tre titoli di Piazza Affari: Mediobanca, CNH Industrial ed STM, che guadagnano oltre un punto e mezzo. È tutto. Grazie anche a Deborah Rosciani. Naturalmente il tema della giornata, l'avrete capito, torneremo a parlarne, altre interviste e commenti anche per noi in effetto giorno più avanti, e poi America 24. Le altre notizie però della giornata di oggi, sempre a Roma andiamo, perché dopo l'informativa sulla Siria il Consiglio dei Ministri ha ripreso il tema in discussione, invece la scuola, perché c'è da cambiare l'esame di maturità, ma non solo. Allora, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Anna. Il Consiglio dei Ministri è appena terminato e sul tavolo, come hai detto tu, c'erano anche gli 8 decreti attuativi sulla buona scuola, che sono stati appena varati in via definitiva. E dunque con questo disco verde la riforma della scuola prevista dalla legge 107 può dirsi conclusa, almeno dal punto di vista normativo, e lo ha confermato proprio pochi minuti fa in una conferenza stampa cominciata appunto da poco il Premier Gentiloni, che ha parlato di una riforma che rappresenta una iniezione di qualità per la nostra scuola. Le principali novità rispetto ai test inizialmente presentati dal governo riguardano il decreto sulla valutazione, uno dei provvedimenti più travagliati. Resta il 6 in tutte le materie per essere ammessi alla maturità, ma si potrà sostenere l'esame anche con una insufficienza se motivata dal consiglio di classe. Restano pure nel primo ciclo di istruzione i voti tradizionali, e poi al via la nuova maturità, ma solo dal 2019. Le prove invalsi, che testeranno anche la conoscenza delle lingue, non saranno incluse né nell'esame di terza media in quello di diploma, ma saranno obbligatorie per gli studenti. Inoltre viene ridisegnata l'istruzione professionale, nuove risorse per il diritto allo studio, novità per l'educazione della fascia d'età 0-6 anni per le scuole all'estero e per l'inclusione degli alunni disabili. E per il momento è tutto. Allora, grazie, ne parleremo tra poco, perché come avete sentito le novità sono importanti per gli studenti. Intanto sempre Gentiloni ha parlato anche di riforme, ha detto parleremo nell'occasione martedì dell'approvazione del DEF e del Piano Nazionale delle Riforme. Sì, perché l'altro tema caldo sono i conti. Martedì prossimo dovrebbe essere pronta la manovra di aggiustamento chiesta dall'Europa. Oggi i ministri economici europei sono riuniti alla Valletta sotto la presidenza maltese. E di conti italiani ha parlato il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici. Conosco la politica italiana, ho degli amici, interloquisco con il governo nel mio ruolo di commissario europeo, ho parlato con Gentiloni, il mio referente e Padoan, ha detto Moscovici. Con l'Italia stiamo lavorando agli impegni da prendere adesso entro la fine di aprile. E quindi tutto confermato, martedì prossimo ne sapremo di più. Tra l'altro al Eurogruppo, e poi tra pochissimo comincerà anche Ecofin, c'era ovviamente anche il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Al centro delle polemiche per i suoi interventi, le sue parole sul sud dell'Europa non molti giorni fa, ebbene Dijsselbloem ha detto: nessun ministro ha chiesto le mie dimissioni, per ora resto, l'Eurogruppo non ha sollevato la questione, l'ho sollevata io, nessuno vuole mandarmi via. Staremo a vedere anche questa vicenda come si concluderà. Perché c'è anche un'altra vicenda di cui si riprende a discutere, vale a dire il confronto su Alitalia, da pochissimo, nuovo vertice in corso. Al Ministero dello Sviluppo Economico riparte il tavolo su Alitalia dopo lo sciopero di mercoledì. Azienda e sindacati tornano ad incontrarsi alla ricerca di un'intesa sul piano industriale che prevede oltre 2.000 esuberi ed un taglio degli stipendi fra il 20 e il 30%. Per scongiurare scenari peggiori serve un accordo entro il 13 aprile, per questo la trattativa andrà avanti ad oltranza. Il governo resta in pressing sulla compagnia aerea, alla quale i sindacati oggi dovrebbero proporre una soluzione alternativa per salvare i posti di lavoro a rischio. «Metteremo in campo tutto quello che abbiamo a disposizione», assicura il ministro dei trasporti Del Rio, che stamattina ha incontrato il presidente e l'amministratore delegato di Alitalia, Montezemolo e Gubitosi, ai quali ha chiesto un miglioramento del piano industriale e più coraggio sul fronte del rilancio. «Non può essere caricato tutto sul costo del lavoro e sul sacrificio dei lavoratori», ha avvertito ieri anche il ministro del lavoro Poletti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Giocatori brasiliani con false cittadinanze italiane. Un'inchiesta svela un giro di documenti falsi nel mondo del calcio e arriva fino alla Serie A. Avrebbero ottenuto dietro compenso di denaro la cittadinanza italiana, pur non avendo i requisiti richiesti dalla legge. Circa 300 brasiliani, tra i quali figurano diversi calciatori che giocano anche nella Serie A, nei campionati italiano, francese, brasiliano e portoghese. Un escamotage che avrebbe permesso di aggirare anche i vincoli imposti dalle regole del tesseramento. Tra questi Bruno Henrique Corsini in Serie A nel Palermo, Gabriel Bosquiglia della squadra francese Monaco, impegnato in Champions League, Silva Eduardo Henrique dell'Atlético Mineiro Serie A Brasile, Colsenti e Ferrareis dello Sporting Club Internacional Serie A del Brasile. Altri 10 militano in Serie A e B del calcio A5. I carabinieri di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, hanno arrestato il responsabile dell'ufficio di stato civile del comune di Brusciano e il titolare di un'agenzia di pratiche amministrative di Terni in Umbria, sono accusati a vario titolo di corruzione, falsità ideologica e materiale, commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Gli aggiornamenti per chi viaggia, poi torniamo con Effetto Giorno, tra pochissimo parleremo di scuola. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie di oggi per Effetto Giorno, il punto di Radio 24 a metà giornata, 59 missili sulla base siriana da cui sarebbe partito l'attacco con i gas, Trump rompe gli indugi e bombarda la Siria. Mosca reagisce, solo un pretesto, avevano già deciso, Assad responsabile di un crimine, ma l'Italia per il negoziato, dice Gentiloni. Del Rio vede i vertici all'Italia, chiede un piano coraggioso, ripreso il confronto con i sindacati. Cittadinanza italiana per i giocatori, un'operazione svela 300 permessi non regolari, nel mirino anche giocatori di Serie A. Ed eccoci, allora riprendiamo da qui, riprendiamo innanzitutto con le notizie degli ultimi minuti. Vi abbiamo raccontato, vi stiamo raccontando da questa mattina del bombardamenti americani in Siria. C'è stata poco fa la prima vera reazione, non di chi sta vicino al regime di Bashar al-Assad, ma direttamente della Siria. Il comportamento degli Stati Uniti è stato spericolato e irresponsabile, così dallo staff del presidente siriano Bashar al-Assad. Ci torneremo ancora tra pochissimo. Continuiamo naturalmente ad aggiornarvi per tutta la giornata. Parliamo però invece anche d'altro. Parliamo di scuola. L'abbiamo sentito poco fa da Alessandra Schepisi. Il Consiglio dei Ministri è terminato veramente da pochi minuti, confermando di fatto le novità che arrivano e che riguardano molti studenti e soprattutto l'esame di maturità. Non subito dal 2019, ma tant'è, si cambia ancora una volta. Allora io saluto Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi, benvenuto. Buongiorno. Le novità in arrivo, ormai a questo punto approvate dal Consiglio dei Ministri. Facciamo un po' il punto, a molti interessa la questione. Innanzitutto il 6 in tutte le materie per accedere alla maturità, ma con un'eccezione, si potrà avere anche il 5. Ma guardi, ho letto anch'io sommariamente il contenuto dei decreti legislativi. In linea di massima ci sono diverse cose positive, però c'è anche una buona dose di ipocrisia pilatesca. Cioè, al fatto che prima si diceva che si poteva essere ammessi con la media del 6, che vuol dire che un 3 in matematica poteva essere surclassato da un 9 in educazione fisica, adesso non si è avuto il coraggio di dire che i ragazzi che devono andare agli esami di maturità devono avere tutte sufficienti, quindi si è lasciato questo spiraglio ipocrita per cui posso anche andare con il 3 in matematica. Ma se me lo concede il consiglio di classe, quindi tocca agli insegnanti. Ecco. Poi l'altra cosa forse più negativa, ne parlava anche stamane Stella su Corriere della Sera, è il fatto che sia stata eliminata la validità delle prove invalsi. Sono state inserite nel curriculum degli studenti delle superiori. Ecco, chiariamola questa cosa perché interessa molto e riguarda soprattutto gli studenti delle scuole medie, per le quali erano molto contestati. Non si faranno più gli invalsi? No, sì, faranno gli invalsi, ma non avranno nessun significato, diciamo, effettivo sulla carriera dello studente. Ma la cosa ancora più grave è che è stata eliminata la terza prova degli esami di maturità, quella che veniva fatta su diverse materie dalle commissioni interne, e questo era anche un bene perché erano troppo differenziate da una classe all'altra, da una scuola all'altra. Quella che voi dicevate come presidi avrebbe dato omogeneità. Esatto, si chiedeva appunto di fare una prova nazionale uguale per tutti, eccetera. La prova nazionale è stata lasciata, ma non ha nessun effetto sul voto di maturità, rimane nel curriculum dello studente. Beh, queste sono ipocrisie che noi non gradiremmo, insomma, vedere appunto uscire dal Ministero dell'Istruzione. Ne hanno detto anche, ripeto, Stella e altri studiosi del settore. Ancora una volta, vi piace o non vi piace questa ennesima riforma? Ma guardi, le riforme ci piacciono se venissero fatte avendo un quadro generale della scuola, ma queste riforme a patchwork, si cambia un pezzettino, poi un pezzettino, creano solamente dissapore negli insegnanti, fastidio nelle famiglie e lasciano soprattutto perplessi gli studiosi. Una del piccola nota, scolastico. Perché poi tutti gli ordini sono più o meno coinvolti e lo racconteremo anche in GR24 ancora una volta. Per le scuole elementari invece non cambiano i voti, si parlava del sistema all'americana, restiamo con i nostri voti? Anche questo lascia perplessi. Il voto, io lo chiamo A, lo chiamo 7, lo chiamo zucchina, ha semplicemente un significato simbolico, bisogna vedere che cosa esprime quello, quindi tutta questa diatriba, non mettiamo i voti, mettiamo A, B, C, è intrisa veramente di ideologismo e soprattutto non ha nessun significato scientifico. A questo punto tanto vale lasciare i voti come stanno. Ha deciso il Consiglio dei Ministri. Grazie Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi, dicevamo Consiglio dei Ministri davvero terminato da pochissimo. Filo conduttore oggi immancabile, ovviamente l'attacco in Siria di questa notte da parte del presidente americano Trump. Numeri della Siria, al di là dell'attacco di oggi, centinaia di migliaia di morti, metà della popolazione sfollata o rifugiata all'estero. Parliamo ormai, anche se l'ONU da anni ha smesso di fornire bilanci, di circa 400.000 morti, e soprattutto la Siria, che era un paese prima della guerra di 22 milioni di abitanti, oggi sono 6 milioni e mezzo. 5 milioni sono rifugiati all'estero, per la maggior parte in Turchia, Libano, Giordania, in Iraq, in Egitto. Poi ci sono ovviamente le vittime, poi ci sono quelli di cui si sono in qualche modo persi le tracce, quindi è impossibile ormai rifare un bilancio. Ma questi non sono numeri nuovi. Quello che ha cambiato la situazione in 72 ore, la politica americana di un Trump che aveva detto mi comporterò in maniera diversa, le immagini apparse martedì di questo attacco con armi chimiche. Dovute a chi? All'ONU se ne è discusso, si è chiesto anche una commissione d'inchiesta. Ebbene, in 72 ore il messaggio nella notte di Trump e poi l'attacco. Paolo Alli è presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, l'organo che riunisce i rappresentanti parlamentari di tutti i paesi che compongono l'Alleanza Atlantica. Benvenuto. Grazie. NATO che dovrebbe essere in qualche modo l'alleato, il partner primo naturale di Trump, così è stato, par di capire che la NATO sia stata semplicemente avvisata. Certamente la NATO non può fare operazioni al di fuori dei paesi membri dell'alleanza, per cui viene informata, ma se non ha un mandato di altro tipo da parte delle Nazioni Unite, la NATO è un'alleanza difensiva e quindi non può appunto intervenire direttamente. La NATO, allora stamattina la prima reazione è stata un po' piccata, così almeno è sembrata. In realtà poi adesso ha parlato Stoltenberg dicendo che il regime siriano porta la piena responsabilità per questo sviluppo e quindi a seguito dell'orrendo attacco con armi chimiche di questa settimana l'intervento in qualche modo ci stava. È un po' un allinearsi a Trump? No, io ho fatto il medesimo commento, non avevo ancora visto la reazione di Stoltenberg, perché mi sembra abbastanza evidente che quanto sta accadendo viene da molto lontano, è frutto di responsabilità ben precise da parte di Assad e da parte di chi il regime di Assad ha sostenuto e difeso per interessi di varia natura, e non parlo soltanto della Russia negli ultimi tempi, ma parlo anche di diversi paesi della regione che comunque hanno sempre avuto interesse a che la Siria restasse instabile, per ragioni magari opposte a volte, parlo dell'Arabia Saudita, parlo dell'Egitto stesso, l'Iran, in fondo anche la Turchia. La Turchia, esatto. Anche se la Turchia, devo dire, ha fatto, mi perdoni il termine, un po' una sorta di investimento sull'accoglienza dei rifugiati. Io ho avuto l'occasione di visitare... Sì, perché traduciamolo, ovviamente l'instabilità in Siria per l'Europa significa farsi carico dei riflessi umanitari e quindi dell'arrivo dei migranti attraverso il canale balcanico. Io sto facendo un ragionamento anche leggermente più in là, perché avendo visto la situazione dei rifugiati, di circa 3 milioni di rifugiati siriani in Turchia, ho avuto la netta sensazione che la Turchia stia cercando di fidelizzarsi queste persone, e queste sono persone che non intendono scappare in Europa, sono persone che stanno lì perché sperano di tornare nel loro paese. Allora l'aiuto che la Turchia sta dando, spendendo anche moltissimi soldi a queste persone, è una modalità attraverso cui la Turchia poi ritiene di tenersi legati a sé queste persone che rappresentano anche la middle class turca, cioè la media borghesia. Certo. L'attacco di stanotte, secondo lei, è un aiuto in più alla soluzione siriana o rischia semplicemente di innescare nuove tensioni e quindi di allontanare paradossalmente una soluzione? Guardi, io non ho una visione molto chiara. L'attacco di stanotte era in qualche modo inevitabile, che è accaduto due giorni fa con l'attacco con i gas chimici. Io credo che tutto questo stia rivelando che ogni tentativo di soluzione della crisi siriana e della lotta al terrorismo unilaterale o bilaterale o trilaterale è destinato a fallire. Il problema vero è che le grandi organizzazioni internazionali devono intervenire. Io oggi ho fatto un comunicato in cui ho citato non solo le Nazioni Unite ma anche gli altri grandi organismi multilaterali, il Parlamento Europeo, la Lega Araba, l'Unione Africana, il Consiglio di Cooperazione del Insomma, Golfo, come dice Trump, seguitemi, la comunità internazionale mi segua, a questo punto bisogna intervenire. Sì, la comunità internazionale deve seguire Trump e Trump deve seguire la comunità internazionale, nella quale c'è un potere di veto importante da parte della Russia, quindi... Certo. Che le cose non saranno. Naturalmente però... così lineari e così semplici. Grazie allora Paolo Alli, presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. Grazie per essere stato con noi. Le 13:30 minuti per noi, come sempre, al momento di una pausa, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Effetto giorno. Il punto di Radio 24 a metà giornata, le notizie di oggi, 59 missili sulla base siriana da cui sarebbe partito l'attacco con i gas, Trump rompe gli indugi e bombarda la Siria, Mosca reagisce, solo un pretesto, avevano già deciso l'Italia per il negoziato, dice Gentiloni. Del Rio vede i vertici all'Italia e chiede un piano coraggioso, in corso il confronto con i sindacati. Scuola si cambia, il Consiglio dei Ministri riscrive le regole per l'esame di maturità dal 2019, tutti sei, ma il Consiglio dei Ministri potrà decidere di ammettere anche con un'insufficienza. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta... Effetto giorno. L'Italia riconosce i propri torti nei confronti di sei cittadini per ciò che hanno subito nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova. Di fatto la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo chiude i casi 16 anni dopo e proprio nell'anno del G7 italiano. Allora torniamo a parlarne con le inchieste di Daniele Biacchessi. Il 21 e 22 luglio 2001, nei giorni del G8, la democrazia fu sospesa a Genova. 300 cittadini inermi che avevano partecipato alle manifestazioni vennero arrestati per le strade della città al termine degli scontri. Gran parte di loro non erano in possesso di oggetti contundenti e bottiglie Molotov. Vennero trasferiti in luoghi di detenzione illegali, come la caserma di Bolzaneto. Picchiati, seviziati, torturati per giorni, interrogati senza la presenza di avvocati difensori. Tra le mura della caserma risuonarono più volte inni fascisti e nazisti. Molti dei ragazzi vennero costretti a rimanere immobili per ore. Le donne subirono violenze fisiche e morali. Le forze dell'ordine si trasformarono in carnefici. Le loro vittime ebbero danni fisici e psicologici incalcolabili. Nel 2013 per quelle violenze vi furono 7 condanne e 4 assoluzioni in appello. Le pene erano però quasi integralmente coperte dall'indulto. 16 anni dopo da quei fatti, il governo italiano ha riconosciuto i propri torti nei confronti di 6 cittadini che avevano fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Gli verserà 45.000 euro ciascuno per danni morali e materiali e spese processuali. Ma non ci sarebbero stati ricorsi. Se nel nostro ordinamento penale fosse stato presente il reato di tortura, le prime proposte politiche risalgono a ben 28 anni fa. Quanto tempo ci vorrà ancora prima che il Parlamento approvi misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura? Allora, grazie anche Daniele Biacchessi. Gli aggiornamenti continui a Radio 24 su quanto accaduto in Siria questa notte e soprattutto a questo punto anche su quelle che sono le reazioni diplomatiche che via via si stanno susseguendo. Rompe definitivamente gli indugi l'Europa, perché poco fa ha parlato anche il Presidente del Consiglio Europeo Tusk. Dagli Stati Uniti ha detto è stata mostrata una necessaria risolutezza. Questa è la posizione ufficiale dell'Europa. Abbiamo detto che dalla Siria, per la prima volta da questa mattina, c'è una posizione del regime di Assad che parla di azione americana spericolata e irresponsabile. Andiamo anche in Siria con le molte testimonianze che vi stiamo dando dalle prime ore di questa mattina. Faisal Najati è funzionario del Ministero del Turismo di Damasco e lo ha contattato poco fa Raffaella Calandra. Ci siamo svegliati stamattina con questa notizia che non si aspettava di sicuro, perché si aspettava di fare un po' di indagini su quello che è successo in questa città che si chiama San Shehun. Bisogna verificare, bisogna essere sicuri di cosa è successo prima di fare questo rise dalla parte degli americani. Comunque i danni ancora non sappiamo esattamente, è stato colpito un aeroporto nella provincia di Homs, al centro della Siria. È una cosa, un sviluppo nella crisi della Siria inaspettava, soprattutto dal presidente Trump. Si aspettava un po' di verificare, di calmare la situazione. Invece era una specie di sorpresa per noi siriani qua. Noi seguiamo ancora piano piano come vanno le notizie su questo tema. Quando pensavate che si stava avvicinando una soluzione ed una tregua, adesso vi risentite di nuovo precipitati nella guerra, giusto? Stava sempre che di andare un po' più avanti nella soluzione politica, di trovare una soluzione politica in modo di calmare la situazione e di finire questa grande crisi che soffriamo da 7 anni. Un po' difficile adesso di tornare a questa situazione con questo nuovo evento. Cioè adesso noi oggi venerdì, voi sapete venerdì per noi il giorno di riposo. Noi siamo andati, appena io sto tornando dalla preghiera del venerdì, la gente si muove, però la gente è tutta un po' di shock di quello che è successo, e la gente si muove tranquillamente, invece si aspetta, tutti si aspettano le notizie in queste ore, diciamo nelle prossime ore, come vanno le cose, in quale direzione vanno le cose. E questo ovviamente è l'altro lato della medaglia di tutta questa vicenda. Continueremo ancora ad aggiornarvi, però insomma è anche venerdì, quindi c'è spazio anche per temi più leggeri. Allora, Maria Luisa Pezzali ci porta invece a Milano al Fuori Salone. Nato come evento spontaneo negli anni Ottanta, oggi il Fuorisalone, il circuito di eventi correlato al Salone del Mobile che durante la Design Week anima Milano di mostre, presentazioni e feste, attira oltre 400.000 persone per un indotto stimato di oltre 220 milioni di euro. Addetti ai lavori, studenti, appassionati, ma anche semplici sperimentatori della formula di evento diffuso copiato da decine di manifestazioni in Italia e nel mondo. Creatività e divertimento rendono accessibili a tutti le ultime tendenze in fatto di design, tecnologia, moda, comunicazione e cibo. Che cosa rappresenta per il mondo del design e per la città? A margine dell'evento Mix It Up di Pepsi, lo abbiamo chiesto a due grandi nomi del design come Fabio Novembre e Luca Nichetto. È come se si accendesse un faro su Milano in questi 5 giorni che interessa il mondo. È un momento fondamentale e non è più appannaggio soltanto di chi fa dei mobili, è appannaggio della città e dell'Italia stessa. Ma io avrei un sogno, lo dico da designer, tutto questo potrebbe tranquillamente vivere per 3 mesi. Vorrebbe dire che Milano avrebbe ogni anno un Expo. Per uno chef stellato come Davide Oldani, che firma anche piatti, bicchieri, posate e persino le sedie del suo ristorante, è un modello che va esportato in altri settori e altre città. Mi fa solo che piacere vedere che Milano sia sempre un po' da traino per tutto, e se anche altre regioni, altre città in Italia lo fanno, vuol dire che l'esempio è un grande esempio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una pausa per noi come sempre, poi c'è Mario Platero, andremo negli Stati Uniti. Anche qui ovviamente il tema principale sono a questo punto i rapporti con la Siria.